Sura 48. Al-Fath. La vittoria. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. In verità ti abbiamo concesso una vittoria evidente, affinché Allah ti perdoni le tue colpe passate e future, perfezioni su di te il suo favore e ti guidi sulla retta via. E affinché Allah ti presti ausilio possente. Egli è colui che ha fatto scendere la pace nel cuore dei credenti, affinché possano accrescere la loro fede. Appartengono ad Allah le armate dei cieli e della terra. Allah è sapiente, saggio. Lo ha fatto per far entrare i credenti e le credenti nei giardini in cui scorrono i ruscelli, dove rimarranno in perpetuo, per mondarli dei loro peccati. Questo è successo enorme presso Allah. E per castigare gli ipocriti e le ipocrite, gli associatori e le associatrici che hanno cattiva opinione di Allah. Che la sventura si abbatta su di loro. Allah è adirato contro di loro, li ha maledetti e ha preparato per loro l'inferno. Qual triste avvenire! Appartengono ad Allah le armate dei cieli e della terra. Allah è eccelso, saggio. In verità ti abbiamo mandato come testimone, nunzio e ammonitore, affinché crediate in Allah e nel suo messaggero, e affinché lo assistiate, lo onoriate e gli rendiate gloria al mattino e alla sera. In verità coloro che prestano giuramento di fedeltà è ad Allah che lo prestano. La mano di Allah è sopra le loro mani. Chi mancherà al giuramento lo farà solo a suo danno. A chi invece si atterrà al patto con Allah, egli concederà una ricompensa immensa. Quei beduini che sono rimasti indietro ti diranno: «Ci hanno trattenuto i nostri beni e le nostre famiglie, chiedi perdono per noi». Con le loro lingue pronunciano cose che non sono nei loro cuori. Di: chi mai potrà intervenire in vostro favore di fronte ad Allah, che egli voglia per voi un male o un bene? Sì, Allah è ben informato di quello che fate. Pensavate anzi che il messaggero e i credenti non sarebbero mai più tornati alla loro famiglia. Questa convinzione è parsa bella ai vostri cuori e avete concepito un cattivo pensiero. Foste gente perduta. Abbiamo preparato la fiamma per i miscredenti, per coloro che non credono in Allah e nel suo inviato. Appartiene ad Allah la sovranità sui cieli e sulla terra. Egli perdona chi vuole e castiga chi vuole. Allah è perdonatore, misericordioso. Coloro che sono rimasti indietro, quando vi metterete in marcia per impadronirvi di un bottino, diranno: «Lasciate che vi seguiamo». Vorrebbero cambiare la parola di Allah. Di: «Giammai ci seguirete. Allah ha detto così in precedenza». Diranno: «Siete gelosi di noi». Sono loro invece a capire ben poco. Di a quei beduini che sono rimasti indietro: «Presto sarete chiamati a combattere contro gente di grande valore. Dovrete combatterli finché non si sottomettono. Se obbedirete, Allah vi darà una bella ricompensa. Se invece volgerete le spalle come già le avete voltate, vi punirà con un doloroso castigo. Non ci sarà colpa per il cieco, né per lo storpio, né per il malato. Quanto a chi obbedisce ad Allah e al suo messaggero, Allah lo introdurrà nei giardini in cui scorrono i ruscelli. Quanto invece a chi volgerà le spalle, egli lo punirà con un doloroso castigo. Già, Allah si è compiaciuto dei credenti quando ti giurarono fedeltà sotto l'albero. Sapeva quello che c'era nei loro cuori e fece scendere su di loro la pace. Li ha ricompensati con un'imminente vittoria e con l'abbondante bottino che raccoglieranno. Allah è eccelso, saggio. Allah vi promette l'abbondante bottino che raccoglierete, ha propiziato questa tregua e ha trattenuto le mani di quegli uomini, affinché questo sia un segno per i credenti e per guidarvi sulla retta via. Vi ha promesso altre vittorie che allora non erano alla vostra portata, ma Allah li ha soverchiati. Allah è onnipotente. Se coloro che non credono vi combattono, certo volgeranno le spalle e non troveranno nessun alleato, nessun soccorritore. Già questa fu la consuetudine di Allah e non troverai mai cambiamento nella consuetudine di Allah. Egli è colui che nella valle della Mecca ha trattenuto da voi le loro mani e da loro le vostre, dopo avervi concesso la supremazia. Allah osserva quel che fate. Sono i miscredenti che hanno ostruito la via per raggiungere la santa moschea e hanno impedito che le vittime sacrificali giungessero al luogo del sacrificio. Se non ci fossero stati uomini credenti e donne credenti che voi non conoscevate e che avreste potuto calpestare inconsapevolmente, rendendovi così colpevoli di una guerra contro di loro. Così Allah farà entrare chi vuole nella sua misericordia. Se i credenti si fossero fatti riconoscere, certamente avremmo colpito con doloroso castigo coloro che non credevano. E quando i miscredenti riempirono di furore i loro cuori, il furore dell'ignoranza, Allah fece scendere la sua pace sul suo messaggero e sui credenti, e li volse l'espressione del timore di Allah, di cui erano più degni e più vicini. Allah conosce tutte le cose. Allah mostrerà la veridicità della visione concessa al suo messaggero. Se Allah vuole, entrerete in sicurezza nella santa moschea, le teste rasate o i capelli accorciati, senza più avere timore alcuno. Egli conosce quello che voi non conoscete e già ha decretato oltre a ciò una prossima vittoria. Egli è colui che ha inviato il suo messaggero con la guida e la religione della verità, per farla prevalere su ogni altra religione. Allah è testimone sufficiente. Muhammad è il messaggero di Allah, e quanti sono con lui sono duri con i miscredenti e compassionevoli fra loro. Li vedrà inchinarsi e prosternarsi, bramando la grazia di Allah e il suo compiacimento. Il loro segno è sui loro volti la traccia della prosternazione. Ecco l'immagine che ne dà di loro la Torah. L'immagine che invece ne dà il Vangelo è quella di un seme che fa uscire il suo germoglio, poi lo rafforza e lo ingrossa, ed esso si erge sul suo stelo nell'ammirazione dei seminatori. Tramite loro Allah fa corrucciare i miscredenti. Allah promette perdono e immensa ricompensa a coloro che credono e compiono il bene.